colpa grave, di slealtà, di malafede, insomma, se ti chiedo di fare un'inchiesta, poi dopo la mando in onda, diciamo, ma insomma, mi pare sono problemi da avvocati che saranno risolti presto. Saranno risolti, lei dice. Senta, oggi il Fatto Quotidiano dà questa anticipazione. La 7, che domani presenta i Palinsesti, la vera sorpresa sarà Saviano. Cioè Saviano è dato con 5 serate sulla 7 e soprattutto il programma, che è stato il programma evento per i 3, Vieni via con me, sarà sulla 7. Sarebbe una perdita clamorosa per la Rai? Naturalmente non so cosa farà la 7, ma io penso questo. Cioè, Vieni via con me è un programma che è nato in Rai, è nato in Rai 3, e tra Rai 3 e Roberto c'è un rapporto solidissimo che risale negli anni, e naturalmente io sono sicuro che la Rai voglia rifare Vieni via con me, capisco e spero che la cosa si possa risolvere, che Roberto abbia avuto l'impressione che quando io dico la Rai dica solo Rai 3 e non dica la Rai. Questo naturalmente mi dispiace e spero che la cosa si possa risolvere e che si faccia in Rai non solo Che tempo che fa, ma anche Vieni via con me, e che anche Saviano possa essere, diciamo, una parte integrante del palinsesto Rai e dire 3, come io ho chiesto da mesi. Ma non credo sia tardi, voglio dire, lo stesso Saviano pare, e anche Fabio Fazio ha scritto questa lettera su Repubblica dicendo non la faremo più in Rai, insomma pare che la rottura sia... Naturalmente, come dire, io posso è tardi, è vero, è tardi, diciamo, infatti la rete lo ha chiesto da tempo, la Rai in questo, diciamo, è un'azienda abbastanza complessa, ma penso appunto che nessuno in Rai possa non augurarsi o non lavorare per avere Roberto Saviano in Rai e Vieni via con me in Rai. Diciamo, Vieni via con me è stato il programma più visto della scorsa stagione, se facciamo eccezione con l'unico che è stato più visto è stato il Gran Premio di Formula 1 di Dubai, se non mi ricordo male, che poi non è un programma ma appunto un Gran Premio. Quindi diciamo, penso che sia la parissiano, come dire, che sia diciamo appunto impossibile per la Rai non lavorare per avere naturalmente poi ognuno è libero, cioè io capisco che Roberto possa avere avuto l'impressione, più che l'impressione, diciamo, perché diciamo in questo la Rai ha di bello terribile, se vogliamo, che tutto avviene sotto gli occhi di tutti, che già la prima edizione di Vieni via con me, come dire, non sia stata così amata, è stata amata, se non dalla rete dove andava in onda, e quindi diciamo poi ognuno, però credo davvero che Roberto sappia benissimo come una rete come Rai 3 ci tiene, come appunto Rai sia una rete, un'azienda complessa, e che diciamo possa invece trovare anche... Ma a questo proposito qualcuno dice, se dovesse andare via Saviano, via Santoro, lo so che la domanda, insomma, non so se può rispondere, ma alla Rai c'è qualcuno che vuole del male alla Rai? Lo devo escludere per... è una cosa che non si può pensare, ecco, non posso pensare che sia così, naturalmente diciamo poi ognuno è libero di dare i suoi giudizi, ma io penso che sia che chi lavora in Rai non possa che volere bene la Rai. Senta, le ha viste, le ha lette le intercettazioni, la vicenda Bisignani, per le pressioni in Rai sull'ex direttore generale della Rai Masi, che effetto le ha fatto, insomma, adesso al di là delle... ho letto anche quelle che riguardavano me, che riguardavano sì, cioè, anche in altre inchieste che volevano cacciarla, no? Cioè, sono stati fautori della cacciata, poi reintegro, no? Che devo dire, diciamo, sono cose che fanno male. Sono cose che fanno male. C'è però un'altra persona che è arrabbiata con lei, lo sa? È Lucia Annunziata. Oggi, se non ha letto, fa un'intervista al Messaggero. Dice c'è stata una vicenda per cui è saltato il suo programma nella scrittura del palinsesto. Le ha detto, ma è stato un errore. Ma Lucia Annunziata oggi è arrabbiatissima. Al Messaggero fa un'intervista, dice anche a Rai 3 ci sono privilegi, un poco ovunque. Ci sono anche piccole mafie, addirittura. Parla in maniera così molto dura. Non ho letto il Messaggero. Se Lucia ha detto che a Rai 3 ci sono piccole mafie, ha detto una grande stupidata. Lucia sa benissimo che il suo programma è in palinsesto, perché la mattina di quel di quella presentazione di Parinsesti ci eravamo visti e l'avevo pregata di venire anche lei alla presentazione. Avevamo parlato della prossima edizione di Mezz'ora, che è un programma a cui io voglio bene, che ha dato prestigio alla rete e punto, direi, diciamo. Era saltato, era molto banalmente saltata una pagina, insomma, veramente la mattina diciamo, abbiamo fatto una riunione sulla prossima edizione di Mezz'ora con anche alcune novità che riguardavano la possibilità di fare dei piccoli reportage, la possibilità di avere una pagina internazionale più lunga. Quindi diciamo, direi che il termine mafie, diciamo, non le piace per niente. No, direi proprio che è proprio una stupidata. Senta, l'ultima domanda è questa: visto che si parla molto di La 7, mettono anche lei come possibile passaggio alla 7, prossimo direttore di rete di La 7. Ho già fatto una dichiarazione qualche giorno fa sul fatto che io sto lavorando per la Rai. Va benissimo, io con questo la saluto e la ringrazio intanto per essere stato con noi. Paolo Ruffini è il direttore di Rai 3. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi parliamo di questa inchiesta, allora, di questa inchiesta ribattezzata P4 dai giornali, perché vi chiediamo, ma credete al mare di intercettazioni, alle accuse che si profilano da tutte queste intercettazioni, 19.000 pagine della Procura di Napoli, nelle quali si evince che certo Luigi Bisignani, questa è una cosa certa, parlava un po' con tutto il potere trasversale 360 gradi dalla politica all'imprenditoria, al giornalismo in Italia. 24 mattino. 8:35 minuti, parliamo allora di questa inchiesta ribattezzata ai giornali P4, di cui si leggono molti particolari delle migliaia di pagine di intercettazione anche oggi sui quotidiani. Quello che vi chiediamo, insomma, voi credete che ci sia qualcosa di concreto in quello che leggete e che viene dalla Procura di Napoli? Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E devo dire che prevalgono per il momento i sì nei nostri ascoltatori, su radio24.it il 71% dice di sì. In ogni caso ne vogliamo parlare con due direttori di giornale, il direttore del giornale Alessandro Sallusti, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Così come voglio salutare il direttore del Fatto Quotidiano, ben ritrovato anche lui, Antonio Padellaro, buongiorno Padellaro. Buongiorno. Vorrei partire da lei, dal suo giornale, che oggi, come tutti i quotidiani per la verità, pubblica gran parte delle intercettazioni. Per esempio c'è a pagina 4 e 5 sul Fatto Quotidiano le amicizie giuste, quella che voi avete disegnato come la mappa del potere di Luigi Bisignani, l'uomo chiave di questa inchiesta, la mappa del potere. Ecco, però la prima domanda è proprio questa: è una mappa di potere, cioè di relazioni? Parlava veramente con tutti, politici, imprenditori, giornalisti a 360 gradi, ma ci si chiede, e che reato sarebbe questo? Ma io penso che ci siano due aspetti. Uno di tipo penale, perché c'è un'inchiesta della Procura di Napoli dei due PM Curcio e Woodcock, che ieri è stata valorizzata dalle parole del procuratore capo, quale ha detto che non si trattava di gossip, ma si tratta di cose molto gravi. E io mi limiterei a questo passaggio, laddove nell'ordinanza si dice che questi personaggi guidati da Bisignani si muovevano in base a quattro mosse: acquisire indebitamente notizie, intimidire, blandire, per poi passare al ricatto e alla richiesta di favori. Quindi, se verranno dimostrate queste mosse, mi sembra che ci siamo ci sono dei reati precisi. Il secondo aspetto riguarda, è un po' di costume politico. Noi vediamo, e questo è indubitabile, personaggi di primissimo piano come il presidente dell'ENI Scaroni o come l'ex direttore generale della Rai Masi, che trattano Bisignani e i suoi accoliti con una enorme deferenza. Sì. E addirittura abbiamo letto di Masi, l'ex direttore generale, che si fa dettare la lettera di licenziamento, di presunto licenziamento di Santoro, sì, direttamente da Bisignani. Allora qui bisogna capire perché se si tratta semplicemente di una lobby, beh, è una lobby straordinariamente potente, cioè una lobby che costringe un alto funzionario della RAI altissimo a scrivere quello che vuole. Non parliamo poi dell'ENI, l'ENI è una delle principali imprese italiane e europee, e abbiamo il presidente il quale appena chiama Bisignani si mette sull'attenti. Vabbè, ma cioè, che ce ne sia abbastanza. Se la questione è, voglio dire, di Masi, appunto, è mal costume, oppure andare da una persona che, come dice lei, fa lobby, una cosa che per esempio in America viene anche codificata anche a livello europeo, cioè ci sono proprio i lobbisti che lo fanno di lavoro, cioè mettere in contatto le persone, aprire i canali giusti, sempre ovviamente se si parla dell'ambito della legalità, stiamo parlando di questo. Ma no, ma per esempio c'è il caso del presidente del CSM, del vicepresidente del CSM Vietti. Sì. C'è questo personaggio papa, poi ve lo raccomando, questo ex magistrato diventato deputato del PDL, il quale raccoglie notizie sulle presunte frequentazioni femminili di Vietti, e si capisce perfettamente che sulla base di quelle informazioni si vuole premere su Vietti per anche per ricattarlo. Ma mi sembra che la lobby sia una cosa diversa. I lobbisti, a parte che ci sono gli elenchi dei lobbisti, I lobbisti rappresentano un'impresa, un gruppo di imprese, e diciamo alla luce del sole fanno il loro lavoro, degli cioè interessi, cercano di creare contatti tra l'impresa e il mondo politico. Ma che c'entra questo con Bisignani e i servizi segreti e tutte le cose che stiamo apprendendo? Intanto non c'entra niente. Vorrei dal direttore del giornale, oggi l'approccio del giornale è ben opposto, diciamo, rispetto a quello che fa il Fatto Quotidiano. A parte Sallusti, ci deve spiegare perché insomma pubblica una telefonata nella quale vi difendete, dice la prova è questa, il giornale non si va in fatto condizionale, perché il giornale viene tirato in ballo, no, in una serie di intercettazioni anche di Bisignani, che era un po' infastidito anche dalla linea di editoriale, se non sbaglio, del giornale. Ma guarda, innanzitutto buongiorno, e poi direi una cosa che il collega Padellaro ha sottaciuto, anzi addirittura ha omesso, che la sua tesi, quella che ci ha appena illustrato, che è la stessa ovviamente del PM Woodcock, non è che deve aspettare una sentenza per essere bocciata o no, è già stata bocciata, perché c'è un GIP, c'è un giudice superiore a Woodcock che ha detto: caro Woodcock, tu non hai una prova in mano di quello che dici, per cui io non accetto, ti respingo l'ipotesi che questa sia un'associazione segreta, un'associazione a delinquere, che qualcuno abbia corrotto qualcuno. Ammetto soltanto che c'è l'ipotesi che Bisignani e un altro paio magari di mascalzoncelli abbiano fatto delle violato dei segreti d'ufficio, abbiano tramato, abbiano fatto delle cose un po' borderline con la legge, ma tra l'altro di valore, come dire, penale veramente minimo. Ecco, allora diciamo che c'è già una sentenza che dice che tutto questo è una grandissima montatura. Una montatura. Esiste una sentenza. Per quanto riguarda il giornale, è ovvio che questa lobby, che è formata tra l'altro in alcuni casi da persone assolutamente per bene e normale, che come succede in qualsiasi sistema di potere relazionano tra loro, come in qualsiasi sistema di potere esistono degli idioti e dei cialtroni, direi più che dei delinquenti, che fanno delle cose bizzarre sicuramente, e dentro a questa lobby interessava, come a qualsiasi lobby, come dire, condizionare, tentare di condizionare i giornali. Dalle intercettazioni si evince che questa lobby si lamenta che il giornale, che non riesce a condizionare il giornale. Sì. Ma io vorrei, ma a chi si riferisce? Mascalzoncelli, perché vuol dire che anche Bisignani per lei è un mascalzoncello. No, voglio dire la cosa che giustamente segnalata anche Padellaro, io credo che sconfini veramente nella commedia all'italiana, più che in un reato penale, in qualcosa di scandaloso, cioè che il direttore della RAI si faccia dettare da qualcuno. La legge essenzialmente di Santoro la vedo più in un film di Totò che in una commedia. C'è anche questa, pare questa intercettazione nella quale Masi, dopo essere intervenuto da Santoro, il giorno dopo, no, l'ha pubblicata proprio il Fatto, chiama Bisignani, dice: allora come sono andato? È una bella figura di merda, pare che Bisignani ne abbia... Ammetto che Masi è un personaggio insomma abbastanza inquietante per certi versi, tanto è vero che tra l'altro con le buone e con le cattive, presto o tardi, comunque non è più direttore generale. però la questione, Sallusti, effettivamente che ministri, per esempio oggi c'è Stefania Prestigiacomo, ministro dell'ambiente, che è uscita questa intercettazione la quale dice Berlusconi dovrebbe fare questo se fosse intelligente, purtroppo non lo è, cioè purtroppo non è intelligente, questo non le farà immagino passare un buon quarto d'ora, come ho detto, nei rapporti col Presidente del Consiglio. Anche noi, perché sono un giornale, certo. Ma qui siamo nello spionaggio puro, voglio dire, dov'è il reato? È ovvio che uno al telefono, io quante volte al telefono con dei miei amici ho detto, ma mio figlio è veramente uno stronzo, dopodiché può essere che in quella frazione di secondo lo pensavo perché non avevo fatto, ma non è che io generalmente penso che mio figlio sia uno stronzo. Allora andare a spiare nella vita privata, nelle telefonate private di ministri, giornalisti, ci sono anche intercettazioni che riguardano me, ci sono Bisignani e Priatori, Bisignani ed altri, sì, che esprimono, sì, giudizi su di me e che fanno commenti sulla mia vita privata, voglio dire, ma questo è la mascalzonata della Procura di Napoli, perché non si entra nella vita privata delle persone e si dà tutto all'opinione pubblica senza come dire, scegliere ciò che appartiene a un'ipotesi di reato e ciò che non appartiene. No, questa è la posizione, è chiaro, una mascalzonata la definisce, non so se su questo padellaro, sulla questione dire, non so, la Prestigiacomo che dice Berlusconi non è intelligente in una telefonata, che cos'è? Cioè metterlo, come lo mettono tutti, dal Sole 24 Ore, il Corriere, il Fatto, l'Unità, il Giornale, tutti, Libero, che tipo di pubblicazione è? Fare cronaca oppure una mascalzonata? Come no, io vorrei pregare di alzare il volume, sì, perché sento, sì, malissimo. Adesso alziamo il volume di Sallusti forse. Ecco, sì. Ma ha definito comunque una mascalzonata pubblicare la questione della Prestigiacomo, che dice Berlusconi non è intelligente. No, non so se è una mascalzonata, mi rendo conto che il vedere le proprie conversazioni private sbattute sui giornali è una cosa sgradevole, e su questo non c'è dubbio. Vorrei tornare però al punto, perché quando Sallusti dice il GIP ha respinto completamente le ipotesi di reato di Woodcock e Curcio, e poi aggiunge sì, poi però ne ha tenute solo alcune piccole, beh, il favoreggiamento non è una piccola cosa, la diffusione dei segreti d'ufficio non è una piccola cosa, cioè qui intanto ci sono dei reati. Non è che il GIP ha detto questa inchiesta è completamente fasulla ed è stato fatto una mascalzonata. Il GIP non ha detto questo. Ha detto che c'è qualcosa di serio, non c'è l'associazione per delinquere, poi sappiamo che ci sono altre verifiche di tipo dal punto di vista della procedura penale, sì, che aspettano e vedremo quello che succede. Sì, certo, però sui giornali leggiamo i titoli della P4. Sì, ma questo io non è che sia felice di che tutte le conversazioni di questa inchiesta siano messe sui giornali. Purtroppo i giornali, lo abbiamo ripetuto mille volte, anche i giornali di Sallusti lo fanno tutti, pubblicano quello che, attenzione, non sono i magistrati, sono gli avvocati, sì, questa no, chiaro, cosa chiaro. Non viene mai detta, i testi con i verbali, le intercettazioni non vengono dati dai magistrati, sì, ce le hanno gli avvocati, ce le hanno tante persone, ce le hanno gli avvocati, qualcuno sì, che no, mi passa il giornale, attenzione, no, perché sennò si fa sempre il giochino, qual è? I magistrati danno ai giornalisti i verbali con le intercettazioni? No, sono gli avvocati che hanno i loro interessi a dare certe conversazioni. Infatti i bravi giornalisti, perché noi facciamo il nostro mestiere, sì, cosa fanno? Vanno dagli avvocati dei vari imputati a e cercano questo, di avere da loro il materiale da pubblicare. Devo dare le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Io soy o blanco o negro. Gris, no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, allora, vorrei sentire Francesco da Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Di che? Scusate l'emozione, non si è emozionato, dica. Senta, una cosa, io sono convinto che i magistrati stanno facendo bene e auguro di continuare, che continuino su questa strada. Poi una cosa, il direttore Sallusti. Adesso il giornale comincerà la sua battaglia sprombattuto contro queste indagini, sono sicuro. Lui parla di spionaggio, ma non parla del caso Boff. Cosa hanno fatto il caso Boff? È stato uno spionaggio pure quello. Lei risponderà tra un attimo, dopo Dino da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sono anch'io emozionato, la prego di non interrompere, perché come premessa, per dire che in Italia va come va, ho fatto 100 interventi provocatori a Radio 24, che peraltro ascolto sempre, però educati, ma intervenuto. Intervento molto soft, intervenuto. Volevo dire che per una volta io ce l'ho con i giornalisti, ma è una roba che siete diventati insopportabili. Sì. Il direttore del Fatto ha detto 30 volte, lei lo stesso, forse, pare, sembra, ma vediamo. Ma come si fa a fare le cose in questa maniera? Ma come si fa? Cioè, i giornalisti cosa dovrebbero fare secondo lei? Non pubblicare nulla? Sì. Ieri sera Giannini è intervenuto e diceva al ministro della PDL: ma come fa a sopportare tutto questo? Ma lei che stimo, e si vedeva che era una balla che non stima per niente, ma come fa a sopportare tutto questo? Dopodiché lui dovrebbe aver detto: io mi chiamo Giannini, sono il vice direttore di Repubblica che vive perché prende una barcata di miliardi. Voi non fate mai una puntata su di voi. Ma guardi, si sbaglia Dino, le manderò il link della puntata, se si riferisce ai finanziamenti pubblici ai giornali, le manderò il link alle puntate che abbiamo dedicato a questo, quindi si informi prima di dire. Dopodiché è stato libero di fare la sua sparata contro i giornalisti. Come vede, siamo qua. Però Sallusti deve rispondere all'ascoltatore che dice insomma fate tanto la questione spionaggio, e poi insomma ha ritirato fuori il caso Boffo. Sì, guardi, rispondo subito all'ascoltatore. Il caso Boffo, il giornale ha pubblicato non un'ipotesi di reato che i magistrati hanno affidato agli avvocati e quindi all'opinione pubblica, ma una sentenza di un giudice italiano che condanna Dino Boffo per molestie telefoniche a sfondo sessuale. Vabbè, poi ci fu anche quel documento invece che si è rivelato falso, diciamo. Finisco. Poi il giornale ha detto che queste molestie telefoniche a sfondo sessuale avvenivano in un ambito di omosessualità. Questo non risulta dalle carte processuali e quindi il giornale ha chiesto scusa della seconda parte della notizia. Ma sul caso Boffo il giornale ha pubblicato una sentenza di un tribunale italiano. Ma perché adesso invece è una mascalzonata quello che sta facendo Napoli? Voglio dire, perché pubblicare? Che cosa i pettegolezzi e le opinioni personali tra due cittadini che parlano al telefono, opinioni che non costituiscono e non possono costituire reato, perché sapere che cosa ne pensano Briatore e Bisignani o la Prestigiacomo e non so chi della vita privata delle mogli, delle amanti, insomma, infatti, però si è sempre chiesto su questo, Padellaro, ci vorrebbe questa legge contro le intercettazioni? La questione si torna su quella, almeno per questa parte, per questa parte delle... No, non ricominciamo con la legge contro le intercettazioni. Ci vuole, non so se il collega Sallusti è d'accordo, perché credo che lui questo metodo lo applichi, ci vuole la misura da parte dei giornali. Ma che non c'è, questa possiamo dire. No, non c'è, non è vero che non c'è, guardi. Io, quando noi abbiamo avuto le intercettazioni sulla Cricca, Balducci e C, le assicuro, e credo che l'abbia fatto anche il giornale, che c'erano delle intercettazioni sulla vita personale, personalissima, sulle abitudini sessuali di queste finite su Repubblica. Sui giornali. Finite su Repubblica. Su Repubblica io qualcosa lessi di Balducci, no? Le famose telefonate. Io parlo del. Ma lei parla del suo giornale, giustamente. E mi sembra che anche il giornale abbia omesso giustamente di pubblicare quella roba. Insomma, in ogni caso, insomma, ci vuole sì un, si può dire, codice di autoregolamentazione, di deontologia professionale dei giornalisti. In ogni caso, qui mi devo fermare ringraziando Antonio Padellaro, il direttore del Fatto Quotidiano, e Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Ci fermiamo con Pietro Lacorte in regia e i nostri Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, e ci trovate tutti su 24 Mattino, la pagina di Facebook, andate lì e continua la discussione. Intanto la linea va a Oscar Giannino, che ospita oggi il presidente dell'antitrust Antonio Catricalà. A domani alle 7:20.